forse non sta uscendo le radio, chi sei? Prova, chi sei? Roberto, chi sei? Vittorio. E sei bassino però di radio, come va? Guarda un po' adesso, 1, 2, 3. No, ti sento, però ti sento bassino. Adesso è tutto gracchiato però. Questo microfono non si chiude. Adesso dovrebbe essere a posto. No, già ti ascolto, ho alzato il volume, però normalmente ascolto quel volume un po' più basso, gli altri quelli che entrano qua su questo canale, il 27. Comunque ti tiro fuori bene, nessun problema, segnale 9.25, abbondante, la radio è chiara, un po' bassina, però ti tiro bene. La radio è bassa, è molto strano, quindi si viene alta. Evidentemente questo microfono è partito. È un microfono da palmo o da tavolo? No, questo è l'MB+5. MB+5 ed è così basso. Ma la vabbè, se avessi la batteria a scarica l'MB+5 non esce. E guadagni al massimo. No, guarda, adesso è a 6. A portare, adesso sono. C'è qualche cosa che non funziona nel potenziometro. Adesso ti sei sollevato, andava molto meglio. Guardate quel potenziometro è mezzo partito. Ma c'era anche qualcun altro sotto, mi sembra. Avanti, che voleva entrare prima. A me come mi ascolti, Vito, bene? Perfetto. È inutile che arrivo, mi trovo il 5 e tutto questo è cercato. Perfetto. Cappa. Sì, probabilmente c'è qualche problema nel... potenziometro che non sta lavorando, è a 4, però no, il potenziometro probabilmente è partito. Perché ai momenti poi come hai girato poco fa, come stavi muovendo, la modulazione era bella forte, adesso non è cambiato niente come regolato. Guarda adesso 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso si va molto meglio. Il potenziometro poi è grato, dai, e questo è un microfono vecchio, ed è, ha fatto la guerra. E comunque l'ho acceso, ma ero da tanto che non l'accendevo, quindi probabilmente è quello che ha, poi un po' di umidità, sai com'è. Potenziometri, poi ci sono le parti di contatto e col tempo si possono usurare, per cui non fa bene, non slega bene, per cui non dà la cosa, il guadagno che deve fare quel potenziometro, magari se ti dà una resistenza di un certo valore te ne dà un'altra. Ma basta pulirlo, non credo che è proprio una questione di pulizia, polvere eccetera, sai com'è, purtroppo quando non si usa tutti i giorni i potenziometri rimangono fermi, quindi la polvere si accumula ed è quella che rovina tutto. Bisogna ogni tanto una pulitina, uno specchio di contatti, se ce l'hai, se si riesce a recuperarlo, magari aprendolo, togliendolo fuori un attimino. No, basta dargli una toppettina col compressore e poi probabilmente si mette a posto, però sempre una spruzzatina di quel prodotto ci vuole. Sicuramente. Che radio stai usando, tu? Che radio? Che io. Questo è un samurai. Ah, no, quello dell'altra volta, no, già funziona bene. Ma c'è anche base laterale quello? Beh, ce l'ha tutte, sì. E più l'FM? Beh, certo. Ah, no, sono bella radio quello, adesso non ero sicuro che fosse quello. Quello argentato, il samurai. Quello che c'ha, il frontale è cromato, capito? Quello di radio sto dicendo quello. No, una bella radio, cavolo. Cioè, frequentemente sono organizzata bene. C'ho tanti anni, ce l'ho almeno dall'82. Però mi devo spostare adesso. Ciao Vito, ben sentito, ci sentiamo in altre occasioni. Ciao ciao. K, buon proseguimento, ciao. Attento Vittorio, ci sei, cambio. Che, avanti? Ciao Vito, io sono qui al terzo pettine, ma non ti ascolto molto bene. Beh, anche tu sei bassissimo, proprio ti tiro fuori in via del tutto eccezionale. Io ho un'antenna che non è molto bella, gli mancano due radiali ed è un casino. Incomprensibile per me, sei Vittorio, incomprensibile. Ma sei sicuro? Ma guarda che in questa radio funziona abbastanza bene. Sì, l'antenna non funziona molto bene, però non mi ascolti? Vittorio, scusami, ma non posso... Non ti sento proprio. Io sto provando a fare qualche modulazione, ma mi sa che non c'è niente da fare. Pure, vabbè, Padamone è negativo per me, sono sull'altro versante, perciò siamo lontanini. Sarà per via anche di questa modulazione che c'è sopra. Sì, c'è un po' di propagazione, perciò... meno propagazione, si sentirebbe meglio. Ce l'hai le bande? Hai le bande, se mi ascolti? Attenzione Platamona, hai le bande per caso? Hola, hola. Hola, hola, hola, vieni avanti, chi sei, sempre Vittorio? Capo, mi ascolti adesso? Sì, sì, no, forse forse come radio, però ci ho capito. Vai, continua. Sto sempre modulando con lo stesso impianto, non ho fatto niente, evidentemente la propagazione è negativa per noi, perché siamo distantini, perciò, comunque non ho capito il tuo negativo, scusami, l'hai copiato? Attenzione se mi stai ascoltando, hai le bande per caso, un capo? Vittorio, faccio molta fatica, non c'ho, è un semplice CB questo, non riesco a sentirsi molto bene. Ma hai le bande per caso, se mi hai ascoltato, capo? Ciao Vittorio. Attento Vittorio, attento Vittorio, cambio. Attenzione, canale 10, cambio. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attenzione, 10, cambio. Hola, attenzione, canale 10, cambio. Prove tecniche e trasmissione, prego. Sentiamo 7, 9, blu, hai già detto. Io ti sto dicendo. facendo quello che è già successo, non attaccare, perché non va bene, capito? Non va bene, è già successo ad altri che ci hanno lasciato il netto, usano altro tipo di baracchino collineare. Ah, è tranquillo questo. Ho scoperto la roba che non può. 5 watt, tondesi, nondesi. Non c'entra niente, 5 watt, non c'entra nulla. Allora, aspetta là, che lo stacco. È tutto già acceso, figurati. Solo che non lo stavo neanche usando, adesso è staccato. Vabbè, io quello che sto dicendo, non è attaccare, perché è un bel sensibile. Un bel sensibile. Mi pare che Gianni aveva dato quel problema. Lineare usa un altro baracchino, già ne hai, e quello lo usi normale, usando i nafutti. Ah beh, quello sì, già ne ho baracchini, c'ho il 3009, c'ho il Connex 4000, a Olia baracchini. Sì, 9,20 e passa qua, senza lineare usa di nafutti. Va bene, ultimo per la truppa. Su sì c'è... I satelliti ci sono, cazzo. Washington, Santiago 920, boh. Qui c'è proprio una tabella di propagazione. Stamattina, di lusso, che. Perché il tempo non è bello, capito? Per quello è. Va bene, Antonio, che mi sto prestendo per fare una visita medica. Adesso mi preparo. Sentiamo, ciao. E ciao, Cla, ci sentiamo, alle prossime. Dai, non ammala, vai. Sta l'accento. Ora. Mi stia passando, ma ha avuto mal di testa. Brava, quello, il tempo, il tempo. Fare il tempo sono in gorra. Se non di matematica voli sono in gorra. Così è. Allora, aspetta che sto chiamando mamma. Pomporino, ci sei, Pomporino. E comunque adesso lo vediamo. Cara, perché a me avevano detto che sì, tu capo il contratto invece è tutta una abbia da palunguru era. Perché? Perché alla fine lui non ho fatto niente, capito? Non ho fatto questo bando di reintegro, però se deve essere già disoccupato. Tu finisci quando? A maggio. Sì, vabbè, dai. Quanti giri? Disumane, disumane. Ma loro che ne sono entrati da poco anche, c'è qualcosa? No, non è entrato nessuno nuovo, lui. Siamo sempre noi, i soliti. Uno te l'ho detto, quello che c'è a noi, un attore specializzato è entrato in provincia fisso, e quindi c'è un comune attore. Visto, fortuna. Ormai ricacci nel sedere. Cosa vuoi fare? Purtroppo. E così. Nei posti si può entrare, devi avere conoscenze, capito? Calcio in culo è quello, Luca, anche un posto solo ce l'hai. Sa se Orizzano e cosa, l'avevo fatta per Orizzano, 50° sono entrato. Ho capito Orizzano. E stavo cercando sia Sassari che Orizzano e poi non mi ricordo sia Nuoro o dove. Poi io quella di Sassari non la trovavo mai. Io l'ho fatta per Orizzano e sono entrato 50°. Per entrare fisso? No, ma fisso. Fai che cosa? Uscire. Uscire in provincia, cioè non fare nulla. Non fare nulla, ma sempre in chi vedi picciare. Cosa lui? Ho detto, a non fare niente, ma sempre lì devi stare. Cosa c'entra? Ehi, vabbè, dimmi che poco a stare lì. Non fare niente, sempre lì a tetra erano attessi. E sono bei soldi. Sì, poi cosa vuoi dire? C'hai i figli, ma... Cazzo, dai, sempre... Cioè, io faccio sempre lì, sono sempre in chi subito, so. Oia. Vabbè, te la dai tu, ma dico, una volta che passo, c'è sempre quel pezzo. Non è che ne vedi assai, noi rifacciamo un po', fate che marcia a piedi. Ma a metri però, smontate e fate subito, gittando e poi i mattoni. Ma noi trovate le palo pure a filo. Dalle 8 e mezza non trovavamo, uscivamo all'una e mezza. Vedi, così c'è bello, io sono sempre lì via Politea, ma gli altri sono in piazza di terra e dovrei cercare pezzi anche su un pezzo. Come mai non c'è l'architetto, l'architetta? Già passa da noi a controllare, sono sempre su in piazza d'Italia e ce la fa il marito al mare. Ma tu che arriva sempre va, va cuccia, vai, sempre va, basta ti ho detto. Ah, ma c'è poco fa, ma niente ancora, è un poco di vinte. Ah no, ma la tieni a casa tua e la tua mamma. Ho capito. Ho detto, dove la tieni sempre, a casa tua o la tua mamma resta? Ma come viene? Non mi faccio venire con me. Se devo fare cosa rimane qua la mamma, capito? Grava, bene, Neda. E va bene, lui, dai, che qua è pronto e se ci sentiamo dopo cena, dai. Andare a dopo, buona cena, saluti a tutti, ciao. Ehi, a contraccambio, Lugarie. Poi senta Bombolino già. Dai, me la credo anch'io dopo, dai. Positivo, dai, che va oggi. Bene, grava, già tutto acceso qua, ciao. Saluto, saluto. Ciao Claudia, buonasera. Ciao, ciao a tutte e due. Via, mandi grave, sto andando, qua è già pronto. Io ero qui tu a caffè, qui già adesso, adesso vado a mangiare anch'io. Mi stai ascoltando bene, Daniele? Sto provando un altro caffè, che ogni tanto ma perché dici? Sì, se non avevi detto che era un altro, una volta era sempre la tua, etica e spiccicata. No, vabbè, sempre della serie K, però è quella un po' più grande, va bene. Infatti mi sto combattendo, provando l'MC60, ci andava bene, ma la regolazione già è quella, già va bene. Capo di rotto, guarda, fai da 9-10 modulati, va benissimo. Sì, alla grande allora, non c'è problema. Ottimo per la truppa, vabbè, sono a potenza. Qui sono a 30 watt, ho aumentato qualcosa. Guarda che controllo meglio qua. che sono a 30 watt, devo fare a 10 watt. Ha aumentato qualcosa? Un pelino, Claudio. Appena, diventaci proprio rocchio. Cappa. Allora, aspetta. Lo rimettiamo a 10 watt. Già va bene così. Ciao anche a Luca, comunque. Buonasera a tutti. Allora, non lo facciamo, mi interessa Daniele, se è la mia la... Identica, uguale, spiccicata a tutte le altre volte che ti ho sentito qua. E quindi è arrivata bene, ce l'ho a uno e mezzo, Michi, che ce l'ho bene. Ok, dai, vi saluto, baci e abbracci a tutti, ciao ciao. Dai, che qua mi sono già... Bene, lo senti, dai. Le prossime cose, o dopo sei coincide, dai, ciao Claudio, ciao Luca, ciao ciao ciao ciao. Voglio andare a casa, e casa dove? Hola, attenzione 10, K. Hola. Ebbene, allora, un bel bombolino. Quanto scendo? Un bel forte, sì. Bella la radio, va bene. Non vogliono lungo. Chiappa, abbasso un pelino. Scazzo di una bomba, brutto. Così va meglio. Così sì. Ce l'ho perfetto, ma c'è due. Chiappa breggia, il caspita. Una bomboletta, sì. E allora, prova, sto bene? Sì, già va bene, mi stavo... Sono entrato per spegnere tutto e poi ci accendo qua per pensare sta funzionando ancora. Già funziona. Già un minuto di funziona. E deve funzionare. Ciappa. E là mi arriva un bar forte, mi arriva. Ehi, questa radio funziona, però c'è l'altra. Questa brescia è spenta. È una brescia spenta. Usando più, vabbè, sto entrando pochissimo qua. Più là stai andando questo periodo? Sono sempre due mesi. Io non so come cosa che ha fatto in commentare in Kiwi. Vabbè, ci vogliono le radio, le antenne, tutte cose. Cappa, già lo so. Ehi, Bariso, già non c'è problema. Però io non voglio battere, io non mi sono mai interessato a quale tipo di bande, cioè, non mi interessa. Cappa, quella è appunto, è che muore già. E beh, e quindi adesso sta a posto. Sì, sto a posto. Aspetta, cambio radio, però con l'altra mi dici quella più forte. Se questa o quella. Ria, vai a vedere com'è. Andiamo. E questa come andò? Meglio di quella là o uguale a quella là? Quella là pompava di più. Pompava di più di questa, ma questa la possiamo far pompare, ciao. Ciao a tutti, no, meglio questa secondo me. L'altra a me è più bella questa, più limpida. Quella è troppo forte. Ehi, va bene, sia una che l'altra, questa è meglio. Gappa gappa, vabbè questa è, ce l'ho a 1,5, dovrebbe andare così, guarda. Ecco, così dovrebbe andare, va bene lo stesso. Gappa, io va andando bene, sì. Ho mancato un bel segnale, adesso. Ma si è attaccato? Sì, sono agganciato. Ah, pagisci, Gappa. E adesso vediamo. Sono indeciso se prendere quello da 300 watt, giusto così, o non c'è propagazione, un po' ti aiuti, da. Io andavo in macchina così, ma a casa non va bene. E gli chiamano bene così, ne ho due io di 747. Adesso è mio, già pagato. Ma c'è qualcuno, c'è. occasione. Ma cosa? Hai visto un BBB? Hai visto un bordello, cos'è? Tu ci senti BBB, BBB? Avevo un coso. Un coso è fasciato, Bari. È un coso fasciato, Bari. Chi sarà la Sartoria? Vabbè, lascialo Iuga, se lo fate scemo, Santiago 2. Va bene, dai, no, stavo provando un po' a serrare, perché era tanto la luce, allora quindi 430 l'abbiamo provato, va bene, l'ho abbassato a 30 anni di Kiki, questo è l'altro 430, quindi regolato così, va bene così Luca, va bene così? Eia, ho 2 secondi che sto guardando un attimino fra le 5, là. Frappi, adesso qua l'ascolto, sono questi drombo, adesso da luna fino a poco fa mal di testa, meno male mi è passato, cazzo, ma mi ha stordito, se c'è il freddo, perché ieri ho usato la cuffietta, oggi no, oggi nulla, se c'è quello. Sicuramente è isso, tu devi prendere il meno freddo possibile. Adesso cosa, non faccio i capelli troppo corti, io lo so, è la vostra, è dovuta neanche da 9 mesi, cazzo, quindi 0. E a chi tu non vedi la macchinetta? Ah, non me li faccio io, Antonio, no, ancora no, quando non me li so più all'asi. No, io me li faccio fare la mia cognata, e fa bene, li faccio fare un po' più corti e basta. Questo 140, come va? Bene. Va bene, Lucarietto, lo compri? Beh, non mi piace, no? Io voglio una radio che agisca l'FM, ma adesso l'FM, tenga a me, che agisca uno squelci. E allora ci vuole il 430 o il 440? No, 440 non li voglio. E allora il 430 ci vogliono soldi, vero? Sì. Viaggio vidiaca, non è isso. Però adesso fammi finire con il dentista. Tanto ti ho detto, dovrò finire, se te l'avevo già detto, adesso fine aprile, inizio maggio, dai. No, dove non ce li hai soldi, ma tu vuoi neanche un parallo, nel senso che con i problemi soldi, molto meno 350-400 euro, un 430, 140 se ne vuoi a 250 euro, qui questo l'ho pagato 250 euro, nuovo, tra l'altro era anche il mio, però c'è la linea completa, 140, T250, PS50, SP430, tutta la linea c'ho io. Ma MC60? MC60, certo, questo MC60, sulla curva pressione automatico, di linea, tutta la linea completa, l'unica linea completa che ho. Lo so, ci vuole soldi, ci vuole spazio. Io ho spazio o no? Io c'ho un piccolo comodino, piccolino mica, non è che c'ho la baracchina attaccata a un fianco, l'alimentatore sotto. Volendo già c'ho la scrivania, ma capito. E adesso vediamo, vediamo quale pilla. Ora come ora, no. Anzi, ti dirò, che devo prendere anche un mezzo. Adesso vediamo, sto aspettando la risposta di Roberto per quanto riguarda lo zip, dato mi faccio la sapere. Sì, altro che abbiate uno zip, era parte di anni, compare una macchinetta da 300 euro, gli ho trovato a parte un gabbo, faccio quel zip, lascia perdere, sono belle 600 a 600-700 euro, per fare una macchinetta sotto un gru, gappa. Sì, la T250 l'ho preso da poco, ho pagato 150 euro più le spese di spedizione, e c'è la linea completa. Allora, così è in 200 watt, 30 watt, così per massimo, così siamo stazionari e così niente. Va bene, ottimo per la truppa. Dove vuoi fare 600, 500, 600 euro? Magari quelle 600 che non hanno manco idroguida. Guarda, io l'ho comprata, allora ti dico, l'ho comprata da una ragazza che praticamente aveva un colpo al fianco, se ti ricordi, dietro. Roberto me l'ha messo a posto. L'avevo pagata 300 euro con idroguida, le 6. servizi elettrici, 300 euro lo voglio. E 300 euro ci ho messo per metterlo a posto. 600 euro c'è una macchina nuova, fiammante. E vedi, così ci può anche stare. Così sì. Ma no, a spenderci... Spenderci un botto, cioè magari ti compro una 600, la paghi pure minimo una 3.000 sopra. Su conta, 600, poi ci vuole l'assicurazione, il passaggio, cazzo di gusto, cazzo di bene. Sì, anche tu hai ragione, ti copri la testa, quello già è vero. Ma non per quello, ma anche per l'inverno, magari per andare a fare la spesa, magari se fare una visita a mamma, portarla all'ospedale, così non aspetta nessuno. Ah, se tu pensa che lunedì mi tocca chiamare il taxi per portarla lì a Rizzetto a fare la visita. Vedi, capito qual è il problema? Questo diciamo per quello. Come stavo dicendo, ricordatevi che domenica mattina c'è Piazza dei Cini, la partenza della macchina d'epoca, ci sono anche io. Ok, ci sono anche io, se volete venire a vedere, alle 10 partenza da Piazza dei Cini. Io sono appiedato. Sono appiedato, perciò non mi posso muovere. Belle macchine, bella manifestazione. Si fa il giro. Si va a fare che c'è il ciardo. Già le ho viste già quelle macchine lì. Ogni tanto le portano. Così è. Uia, sono un bel stanco stanotte. Mamma mia, va giù il sonno. Infatti ci sto poco e poi mi addormento. Sono belle cose, belle macchine ci sono. Un attimo che riprendo subito. Scappa. Che? Avanti! Buonasera, eccomi. Eccomi qua. E allora, come va? Cappa. Dani, ho visto la boomera. Sto usando una gran play. Che disturbi, no? Rice o non se l'ha mettato nessuno? Ma dipende, dopo la metti. Ma se l'altro che non mi piace, no, mi piace, no, mi piace, non mi piace. Oh, Mario, funziona bene, vabbè, ci sta arrivando benissimo qua. Stai arrivando benissimo, io non lo so perché adesso c'era la anni addietro facevano le mani, quanto va turbo, quanto va 5, perché non le rifanno queste antenne? Visto che la vendita c'era sempre, comunque l'ho vista su eBay 310 euro, ma te ne ricordo? Dai che quelli sono sciacalli, io non so perché questo ogni tanto si accende la luce per il tunnel, e si mette ad accordare. Non so se lo spezzone. Ma c'è cioè, il 14 da. Ehi, 14 c'è l'accordatore, c'è. È 60. Capa. Adesso è zitto. Ma intanto prende e si mette ad accordare. Allora lo spezzone, Daniele. Come sei messa a stazionare? 1-1? Sì, 1-1, però sicuramente c'è, adesso ho cambiato lo spezzone, perché si usa un altro spezzone, accorda, arriva un punto che va a sganciare, no? Che inizia, che per lui è già accordata, e non sgancia, però con questo si mette a sganciare, con questo fa subito, però ogni tanto si mette ad accordare. Ho capito. Lo spezzone, controllatelo con il test, vedi un po', abbatti quando controlla a zero, perché sicuramente c'è qualcosa, c'è scappa, ora mi sono dormente. Io vi auguro una buona notte a tutti, perché sono affezzi, non ve la posso più. Ciao, buonanotte a tutti, mi dispiace che non posso continuare, però vi saluto, ciao ciao. Ehi Anto, buonanotte, alle prossime se coincide, dai. Riprendi lui. Ciao Bomboria, a domani, saluta Sara. Ciao, ciao. Ciao ciao, non ce la faccio più, cavolo, veramente ti giuro, guarda. Guardi un sonno, è una cosa pavolosa, vaggio. Ok, ciao ciao. E tu poi sei uscito dalle 3:30 di stamattina. Ho capito perché, boh, eppure mi sono addormentato un po' tardi ieri, mi stavo alla partita. E mi dico che sai, ma poi vabbè, comunque sia, anche se mi addormento verso le 10:30, mi sveglio sempre presto. E vabbè, avanti Daniele. Ehi Anto, di nuovo, buonanotte, non proseguimento, buon trabacco per domani, alla gara. E io ormai lui ho preso quel sottanatto, io sabato, domenica, cosa, 7, sono già in terra. Ah, vabbè pure io. Io mi alzo alle 6, faccio la puntura a mamma, e poi faccio colazione, aspetto un po', verso le 7, appena inizia a uscire un po' di luce, porto il cane, faccio la passeggiata, poi a fare i bisogni, e mi alzo presto pure io, non è che ormai. Comunque io sono dalle 3:30, alle 4 sveglio, Ciao ciao a tutti, buonanotte dai. Ciao ciao a tutti. Che abbia a proposito. Ciao ragazzi, ciao Anto. Così è lui, così. Adesso ho guardato lo spezzone. E sembra buono, ma è in corto. Non so che malanno li prende, o è il commutatore l'antenna, perché c'è il commutatore. Che commuta con gli altri. Secondo me è come provare la diretta, vedere un po' come si comporta. Lei anche con la diretta me l'ha fatta l'altro giorno. Aspetta 30 secondi che provo, Luca. Aspetta. Provo. Guarda adesso, Lu. Prova. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso non si accende. Ho cambiato un altro spezzone invece. Ma se mi è più alto di segnale anche, Dani, lo sai. Sempre più alto. Sì. No, vabbè, a me non è che arriva più male, forza alta, vi capito, non va bene. Io non è che me ne accorgo, ma ho notato che la segnale sembra più alto. Vabbè, ma facciamo sempre come sono messo, Gesù bucato, sto meglio, Daniel. 9.15, 9.26, sempre lo stesso segnale cielo. No, le ho cambiate invece, brutalmente. L'altra spezzone che va l'accordatore all'apparecchio. Ah, già ne hai messo nuovo. Ma quanto sono? 58? Sì, sì, le spezzone sono a 58. Di carattere 213. Ah, ascolta a me, Dani, a proposito di 213. Stiamo. Lo volevamo prendere in tre. Una matassa di H155. Se sei d'accordo, se ti serve, a me ne siamo 33-34 metri circa. E poi ne avanzano 66, da dividere in due, sono 33 a testa. Bollo, andiamo a vedere. Perché ho tutta la carta 213 qua? Capito? Se non fa... come si chiama? Aiutami a dire la parola. Se non fa? Se l'impedenza è la stessa, lì poi quando tu fai la 213 un pezzo di carta e poi lo congiungi un altro pezzo di carta con l'altro. 50 ohm l'impedenza. 50 ohm, Daniel, capito? È nero. Di ultima qualità. Come si dice? Non lo so. Per trovare qualcuno. Comunque la matassa l'ho trovata. Costa spedita 85 euro. Fatti i conti. Saranno 28 euro a testa, 27,50. Una cosa del genere. Vediamo. Perché stavo programmando una cosa, se mi riesce, per la primavera. Ma appena hai il tempo, per me pure domani si può fare, non è un problema. Io sto sempre aspettando questa risposta, questo ok. Questa c'era l'altro giorno, all'altura, avevo lasciato questa gran plane qua dove adesso ho preso un'altra antenna e messa l'altro ferrato, diciamo, l'altro mio zio. Rimane più alta? Siamo lì, un paio di metri recuperi forse, 2-4 metri la puoi fare, di recupero, questa grossa cosa, dai, però è un po' migliore, più accessibile, più tutto, sai, l'unico problema è che sono tre antenne della TV. Ho capito, cosa vorresti mettere nell'altro terrazzo? Sempre la Grand Prix o un'altra? No, un'altra, perché a riscendere questa, cavolo, l'elemento per l'evento, non lo so, quanto... Oh, solo per fare la spesa da capo, la verità si dica, devi riprendere tutti i tubi o cose, magari trovi un punto, magari ti servono solamente tre elementi, e ciccia, magari trovi un palo TV, la metti sopra un palo TV e stai viaggiando, capito? Sì. Ma cosa vorresti mettere, una 5 ottavi? Sì, lui, 5 ottavi. Anche se con questo, vabbè, come dicevo prima, l'era di 5 ottavi era andata, dai. Era andata, il tuo visore andava bene. Però ho visto che stasera ho fatto un po' di ascolto, girando. E qualcosa l'ho sentito in banda laterale, e poi arrivano anche abbastanza bene. E quale vorresti mettere la 5 ottavi? Guarda, non lo so. Se quale stavo dicendo Claudio, quella J, come cavolo si chiama lì? Quella 200 euro, capito. Molte volte non ti sento bene perché ti porti un po' di QRA dietro. Lo so. Fa fastidio anche a me, a volte invece poi effetto contrario, riesco a sentire a voi quando parlate perché loro parlano da solo. Come tra quella lì, non lo so, una Jäger Master, adesso, forse trovi una Mantova magari, ma fatti un giro su internet, la Mantova la puoi piazzare, sì? Sì, sì, lì se trovi il punto puoi mettere tutte le antenne che vuoi, perché c'è un terrazzo grande e basta trovare un punto di ancoraggio per il palo e ci metti quello che vuoi, capito? Non è questa grossa cosa, ti recupero anche mentre il campo, perché fai la calata e sono già dentro casa, capito? Sono 3, 6, 9, 13 metri, 20 metri di cavo ci vuole, ho capito. Ma che macchina c'è, Daniele? Sempre la stessa, sì. La 147 c'ho adesso. Ah, ecco, non c'è più fuori strada. No, però l'avevo venduto l'anno scorso. Ah, ce l'hai venduta. La 147, ho capito. Cos'è, 1009? Tappa di Rosmetro. Ah, ho capito. La punto di Babbo? Venduta. Ah, che quella, ho capito. Hai deciso di insomma, una macchina, una macchinetta, là, senza averla fuori strada. Troppe spese, no, fuori strada. No, anzi, Lu, assicurazione e cosa andava bene. Che non so più facendo fuori strada, questo coronavirus, queste cose, ho detto, va, fanculo, non faccio la fine. Perché era lì parcheggiato, l'ho venduta. Adesso se trovo un'occasione prendo un pick up che mi serve di più. La 500 ho venduta là. Vale, quella bianca l'avevo venduta. Che visto, ho capito. Ma l'hai presa usata la 147? Sì, usata, era in buone condizioni e mi ha fatto qualche miglioria e basta. Non t'avevo più visto con quella macchina col fuoristrada. A Giugavic. Cazzo del fratello, ci va per carità, va, aspetta che. Mi dà il comando, mi gira le balle, to. Aspetta, vediamo uno. Ah, c'è Harry Potter. C'è un cavolo, to. Non c'è niente tipo. Non c'è nulla. Vai giù. Girami le balle, tieni. A Giugovic, adesso per il momento un'utilitaria, pochi soldi però, ma è un casino ragazzi, è un casino, se non hai un'entrata per mantenerla. Cappa, io lì c'ho un'occasione qua, vicino, c'è una Lancia Y 200 euro. Cazzo, e quanti chilometri c'ha? Quel motore che gli hanno messo ne ha 60.000, neanche 80.000 km arriva. Ma Lancia Y qual è il modello? Aiù, veniamo i baracchini che è ora di fare l'annata, vai. Ah, vero. Lancia Y, Lu, quella... Una c'è Lancia Y. Qual è il modello? L'elefantina, vabbè, poi ho capito qual è. 200 euro da fare. Beh, sì, no. Sì, Lu, fare visto un po' di carrozzeria, ma per il resto è interni a posto, motore a posto, qualche cazzata da falli, cioè basta. La stai comprando tu? Adesso vedo. Nel caso, vabbè, sono 200 euro. Quanto costa il passaggio? 400? No. Quelle 1200, 60 cavalli, 50 cavalli, anche quanto ne ha, adesso non ricordo, non forse un 200 e qualcosa ne viene. No, nel caso fammi sapere, a me serve una macchina, serve, se così ci rientriamo, perché sono 200, poi 250 di passo, ci sono 450, poi c'è l'assicurazione, capito, 1200 già mi va bene a me, a voglia. Poi già me la tengo conto io, già... Poi già ho un amico meccanico anche. Ah, gli hanno cambiato il motore? Sì, tempo fa sì. Però è stato trovato, lo fa sempre bene. Nel caso, se ti viene a me, fammi un po' di foto e me le mandi. Nel caso che poi ci farò un salto. Brava. Chi è che è entrato? Tino, tu sei? Sì, buonasera. Stiamo acquistando. Marketplace, via Rai abbiamo aperto. Va bene. Bisogna vedere. vabbè, le contachiome che mi conteva 300.000 km. No, mi sa, io, mi sa che segna 180, 200, boh. Ah, ecco, ma bisogna vedere se questa qua veramente le ha cambiato il motore. Sì, perché c'è una signora anziana. L'ha fatto andare sensori a fuso e l'altro meccanico, la roba l'ha presa questo altro meccanico che era qua giù e poi è stato anche vicino a casa tua, io dietro casa tua era Gianni. Ah, Gianni R. E si conferma. E quando era qua vicino a casa l'ha presa, l'ha cambiato il motore e se l'ha rivenduta. Senso la Lancia Y, però quella non so quale modello è quello, cioè sono altre Lancia Y da lì. Tanti restyling avevamo fatto, una forma è sempre quella, mi è uscita quella nuova, le fantino rosso, le fantino blu, è tutto rimanere sono usciti. È proprio quella. Comunque ne ho trovato una di una signora che purtroppo si è ammalata. 700 euro, 900 euro, 62.000 km ci aveva. L'unica pecca era che aveva tutta la vernice, tutta era sbiaditta, poi del resto era perfetta. Ecco, è questa, lui è bruciata un po' sopra la cappotta, le classiche, diciamo, meglio che gli vengono le carrozzerie. E alla fine guarda, 200 passaggio, poi dalla polizia del carrozziere c'erano minimo altri 200-300, dato non ci paccata, vabbè poi nel caso, ma lo chiedo a Roberto, vedrò un po' cosa mi fa, che prezzo mi fa. Non credo che ti battano 200 euro per verniciarla, eh. Ah, non tutta, no, magari c'è la capota un po' scrostata, 200-300 euro, dai. È solo il materiale. Picchia, tanto mi pare che la macchina piccia. Non so, perché mi stanno informando con la mia, siccome io la mia gli ho fatto praticamente tutto, però c'è la verniciatura che non mi piace, ormai è colpa dal sole, eh. E questo amico carrozziere mi ha detto, guarda, te la faccio, se vuoi spendere poco te la faccio, come si chiamano quei colori che non sono metallizzati, quei colori tipo nero opaco, questa roba qua, capito? Ah, pastello. Ho detto, va, anche il verde mi va bene, com'è? Però che sia opaca, senza essere lucida, capito? E la luce fatta intorno alle 200 euro. Sei saturo, ti. Saturo? Guarda, adesso si è migliorato, uno, due, tre. Compressa. Allora, non voglio farla la luce. Adesso dovrebbe andare meglio, così è. Insomma, si sente che si stai pompando. Ancora, poi. Ecco qua, guarda a vedere se è migliorato, 1, 2, 3. Avanti, beh, confermi Daniel. Sì, c'è anche il picchi positivo adesso, è vero, sì. Però ci ha messo anche il segnale, ancora non capito il perché, blu. Aspetta. Allora, avevo troppa entrata, c'era, dai. Sei 9.20 spaccate si è arrivato adesso. Guarda, aspetta, non parlare. E adesso? Non tocca, se punta le lascia così che va bene. No, ma stare ancora di più, Già va bene, forte e chiaro. Sì, lo so. È che quando è freddo fa capriccio, devi allineare. Vabbè, però una volta che fai il tutto, già va bene. Vabbè ragazzi, dai, io devo fare le cose del computer, devo fare un'email, quindi devo abbassare il boom e dopodiché me ne vado a mamma. Quindi vi saluto, che domani mattina devo fare le 5 e niente, dai, aspetto i saluti e poi vado via. Ehi, a te, dai! buon tutto, buon riposo e alle prossime se coincide. Riprendi Lu. Ciao T. Buonanotte, alle prossime. Ciao. Vabbè, ciao, ci sentiamo. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao T. Così è Lu. Ma poi se trovate una panda va bene. Ah, sono macchina che io odio, mamma mia, no. A me piace la Ford Fiesta, quella che c'ha, vabbè, la mia 25, modello così. Ne ho vista una in un paese a 50 km da qua, ma saranno 2008, 68.000 km, una ragazza. È troppo cara. Il meccanico mi ha detto che i prezzi sono così. 68.000 km del 2006 mi pare. Cacchio. No, devi tenersela. È troppo 2008. Cacchio, per me sì. Non so il prezzo, ma mi sembra caro. Cavolo, con 2.000 euro trovi una 147, cavolo, del 2008. Ehi, vabbè, cazzo, ma sono un pozzo chissà macchina. No, se prego la cazzo io già, lo usi bene, tranquillo già fai di strada. Ehi, vabbè, la tua gasolio. E si conferma. Ehi, vabbè, uno quando la prende a gasolio la prende perché viaggia, noi la usa in città. Ehi, vabbè, però sono rinato, la macchina a gasolio, quella appunto era un pozzo, lascia perdere. Appunto già era una petroliera benzina era fin, quanto consumava. Benzina consuma, ma anche quella di Marina 1200 consuma. Consuma, già succhia, da qui va. Casino, fortuna, ci vuole fortuna a trovare magari una signora che te la regala, te la uso più, non guido più, te l'immagini. Ce ne sono tante. Poi allora tu pensa, Gio Maria che c'ha l'Opel Corsa, quasi 20 anni, c'ha 63.000 km con la macchina. Ehi, a trovarne un'occasione del genere, Lu. A trovarne, avresti fatto 13, cavolo. Grazie, un orologio, Se la tratti bene tutto, le fai tutte cose già. Neanche se ne accorgeri. La macchina praticamente te la devi tener conto. Fai i tagliandi, se vuoi che vada bene, l'olio soprattutto, controllarlo spesso e volentieri, tutte queste cose qua, cazzattine, là. E vabbè, lui la usa poco, cosa fa a casa e campagna.